vederti vivere una vita da precario, fatti fare lo schiavo a 12 ore senza un salario. Sulla gabbia restano spiragli di luce, nebbi di luna, nebbia alla baia, sotto la grata restino taglia, taglia ricuccia, sbaglia riduce destini più affini alla gloria, nutre le tue cadute, non si discute con le sue mute, cani che seguono le orme cupe. Chiusa la gabbia restano spiragli di luce, nebbi di luna, nebbia alla baia, sotto la grata restino taglia, taglia ricuccia, sbaglia riduce destini più affini alla gloria, nutre le tue cadute, non si discute con le sue mute, cani che seguono le orme cupe. Io sono ancora qui in attività, tra cani cattività, ma dammi ancora 2 anni, metterò limite ancora più là. La strada, la nebbia, la casa, la testa dei suoni che invasa, la vita che non ti perdona gli sbagli e non esci dalla tua razza. Tra quarti lupi ed un quarto di cani, sciolti pazziti, rabusi letali, branchi su branchi per farci gli infami. Siete robot, non più esseri umani. E mentre mi chiudi nel mio labirinto prigione, io sclero mordendo le sbarre. Le idee adoro regalarle, ma se tradisci so reclamarle. Maledetto a chi porta la chiave, sputo diretto sul tempo degli ami. Nel mio progetto non tendo a deviare, col tuo progetto mi tendo a tediare. La mia tensione non la banalizzo, cerco il bersaglio poi la canalizzo. Potete fare più grandi, più forti, più bravi, sui quarti vi cannibalizzo. Ma pizzo una sigaretta, mettendo il vizio, fittendo la nebbia. Se non ricordi più da dove vieni, forse è già confuso tra mente e partenza. Se senza logica parti contro chiunque, incrocio i tuoi sguardi, restano traumi, arriverà dunque senza più armi, prova a fermarmi. Chiusa la gabbia, restano spiragli di luce, nebbi di luna, nebbia alla paia, sotto la grata restino taglia, taglia ricuccia, sbaglia riduce destini più affini alla gloria, nutre le tue cadute, non si discute con le sue mute, cani che seguono le orme cupe. Chiusa la gabbia, restano spiragli di luce, nebbi di luna, nebbia alla paia, sotto la grata restino taglia, taglia ricuccia, sbaglia riduce destini più affini alla gloria, nutre le tue cadute, non si discute con le sue mute, cani che seguono le orme cupe. Non ho paura, la mia natura mi porta a dare fin quando non crepo, ad ogni misura, laguna e luna, calante come la fase in cui agisco. E mischio la cura ad ogni lacuna, la via più dura dove non tocchi. Se non capisci guardami negli occhi, vedrai i tuoi giorni più mille notti. Lasciami solo di tanto in tanto, tanto mi accascio di tanto in tanto in tanto. Prepara tutti i tuoi trucchi per quando starò ritornando. Tra traditori, tra anali si sa, tra mi trapassi nella mia realtà. Tra tradizioni che a tratti mi dà, come il sapore dell'irrealtà. Deliriata avvicinati alla gola, polveri accumulo sotto la suola. Corro fin dalla mia prima ora e correrò fino all'ultima parola. Prova a diventare il capo branco, mettendo in mostra i talenti che hai, ma non hai volontà nato stanco di questi soldi, tu che te ne fai. Mai dato un valore agli oggetti maggiore di quanto dovessi, mai sceso a compromessi solo per salvaguardare interessi. Mentre mi porti via dal grigiore, penso che forse sarà migliore, da padrone a padrone fino a trovare un poco di amore. Chiusa la gabbia, restano spiragli di luce, nebbi di luna, nebbia alla paia, sotto la grata restino taglia, taglia ricuccia, sbaglia riduce destini più affini alla gloria, nutre le tue cadute, non si discute con le sue mute, cani che seguono le orme cupe. Chiusa la gabbia, restano spiragli di luce, nebbi di luna, nebbia alla paia, sotto la grata restino taglia, taglia ricuccia, sbaglia riduce destini più affini alla gloria, nutre le tue cadute, non si discute con le sue mute, cani che seguono le orme cupe. Chiusa la gabbia, restano spiragli di luce, nebbi di luna, nebbia alla paia, sotto la grata restino taglia, taglia ricuccia, sbaglia riduce destini più affini alla gloria, nutre le tue cadute, non si discute con le sue mute, cani che seguono le orme cupe. Chiusa la gabbia, restano spiragli di luce, nebbi di luna, nebbia alla paia, sotto la grata restino taglia, taglia ricuccia, sbaglia